sono sconsolato e ferito in un cammino nel preludio della notte, annusando il mio destino. Solo con mio sguardo impaurito in un posto in cui non ebbi a crescere, dove accecanti luci si dissolvono per sfiorarmi impaurito. Non ti porterò rancore, padrone, ma vorrei capire il tuo volere quando ancora mi paro di risentire. Viva gioia il tuo richiamo, esco insolando, mi beavo nel tuo essere, cercando per gioco la tua mano. Perché eri tu la sua guida esemplare. We'll be right back.